Storie italiane. La principessa Rosa e l'uccello d'oro. C'era una volta, in un regno molto lontano, una bellissima principessa. La sua bellezza era unica, aveva lunghi capelli rossi e amava le rose così tanto che tutti la chiamavano la principessa Rosa. Tutti nel regno la amavano. Un giorno alcuni bambini andarono da lei, ciascuno con un mazzo di rose. Un mazzo di rose di colore rosso, un mazzo bianco, un mazzo era di colore giallo. Principessa Rosa, quale rose ti piacciono di più? Oh, adoro ogni rosa del mondo, miei cari. Abbracciò e solleticò ognuno di loro e loro scoppiarono a ridere. Ogni sera dopo il tramonto, la principessa Rosa usciva sul balcone e batteva le mani. Oh, vieni uccellino! In quel momento arrivò un uccellino d'oro e si posò sulla sua spalla. All'istante i capelli della principessa cominciarono a brillare, a scintillare di luce rossa. Oh, grazioso uccellino birichino! Ti piace giocare con i miei capelli? Presto l'uccello iniziò a cantare un'incantevole melodia. Anche la principessa Rosa iniziò a cantare. E così tutti nel regno si addormentarono e fecero sogni d'oro fino al mattino. Ah, che dolce voce! Buonanotte, miei cari, sogni d'oro. Così passarono gli anni. Ogni sera la principessa Rosa, insieme al piccolo uccellino d'oro, cantava un'amorevole ninna nanna. E tutte le persone si addormentavano e facevano sogni d'oro fino al mattino. Finché un giorno accadde qualcosa di terribile. Una strega malvagia venne a sapere della principessa Rosa. La principessa cantò ancora e la strega si tappò le orecchie. La la la la la la la la la la la. Ah, non mi piace. È troppo buona, troppo bella. La strega cattiva allora decise di mandarle una maledizione. Abracadabra, simsalabim, possa la rosa appassir. I capelli della principessa Rosa diventarono immediatamente neri come catrame. Oh, ma cos'è successo ai miei capelli? Ma devo cantare alla mia gente, farli dormire con dolci sogni. Anche quella sera la principessa Rosa uscì sul balcone e batté le mani. Quando apparve l'uccello dorato, i suoi capelli brillarono, ma neri invece che rossi. Oh no! L'uccello intonò la sua incantevole melodia e la principessa Rosa cantò la sua ninna nanna. Tutti nel regno si addormentarono. Quella notte, però, ebbero solo bruttissimi sogni e incubi. Oddio, era così spaventoso! Io ho visto l'oscurità! Oddio, ho visto serpenti ovunque! Io ho sognato che affogavo nell'oceano! Sono troppo spaventato per dormire ora! Il giorno seguente, la triste principessa chiamò l'uccello, preoccupata gli raccontò l'accaduto e gli chiese una soluzione. Dimmi, uccello dorato, come posso rendere i sogni della mia gente di nuovo dolci fino al mattino? Capelli neri in acqua di rose. Capelli neri in acqua di rose? Questo aiuterà? Chissà. La principessa si meravigliò di questo consiglio, ma fece quanto detto. Riempì una bacinella d'acqua e vi gettò molti petali di rosa. Quindi immerse i suoi capelli nell'acqua di rose e immediatamente divennero di nuovo rossi. Oh, sono di nuovo rossi! Grazie uccellino, grazie! Quella sera, quando l'uccello si appollaiò sulla sua spalla, la radiosa luce rossa dei suoi capelli illuminò di nuovo il cielo notturno. La principessa cantò la sua ninna nanna e tutti nel regno si addormentarono e fecero dolci sogni fino all'alba. Cosa? È tornata? La strega malvagia era così arrabbiata che la sua maledizione fosse stata spezzata che decise di lanciarla di nuovo. Ora le mostrerò il mio potere. Abracadabra! Senza la bim! Possano tutte le rose appassire! E i capelli della principessa tornarono neri come il catrame. Oh no! Non di nuovo! Cosa mi sta succedendo? Questa volta la strega raccolse tutte le rose fiorite in tutto il regno. Vide la principessa singhiozzare e ne fu molto felice. Vediamo come spezzerai la mia maledizione. Ancora una volta la principessa rattristita chiese all'uccello: «Dimmi, uccello dorato, come posso rendere i sogni della mia gente di nuovo dolci fino alle prime luci dell'alba?» L'uccello le diede la stessa risposta dell'ultima volta. Capelli neri in acqua di rose. Ma non c'è una sola rosa rimasta in tutto il regno! Capelli neri in acqua di rose. L'uccello cinguettò e volò via. Oh, per favore non andare! Dammi una soluzione diversa, ti prego! La principessa non sapeva cosa fare. La sua angoscia era così grande che i suoi occhi si riempirono di lacrime, una delle quali cadde a terra. In quel preciso istante, un giovane e bellissimo principe che si era fermato sotto il balcone della principessa tirò fuori da una piccola scatola un capello rosso. Si chinò e mise il capello sopra la lacrima della principessa. E poi un miracolo! All'improvviso il capello rosso si trasformò in una rosa rossa. Ah, questo dovrebbe andare! Il principe prese la rosa e la portò alla principessa. Per te, bellissima principessa. Una rosa? Dove l'hai trovata? L'ho creata con la tua lacrima e un capello rosso. Eccitata, prese la rosa, si asciugò subito le lacrime e mise i petali della rosa nelle bacinelle piene d'acqua. Poi vi immerse i suoi capelli e la maledizione fu spezzata. Tutti rimasero a bocca aperta per lo stupore. Oh, che magia! Giovanotto, dove hai trovato quel cappello rosso? Caro re, quando io e la principessa eravamo bambini, presi una ciocca di capelli come segno della mia lealtà nei suoi confronti e lei fece lo stesso con me, prendendo uno dei miei capelli. È vero, padre. La principessa confermò e tirò fuori una piccola scatola. L'aprì e dentro vi era un capello del principe. Tutti erano contenti di questa notizia. Il principe e la principessa Rosa si sposarono lo stesso giorno. Dopo aver appreso che la sua maledizione era stata rotta di nuovo, la malvagità della strega malvagia si gonfiò così tanto che esplose in mille pezzi piccoli piccoli. Alla fine le rose fiorirono di nuovo in ogni giardino del regno. E così ogni sera la principessa Rosa cantava la sua amorevole ninna nanna, così che tutte le persone si addormentassero e facessero sogni d'oro fino all'alba.